Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. La vendetta è un piatto che notoriamente si serve freddo e, bisogna aggiungere, a volte può coincidere con un'ansia di giustizia. Deborah Bergamini la conoscete se siete lettori dei giornali, l'avrete in memoria se li avete letti nell'autunno del 2007. Deborah Bergamini era una dirigente RAI e fu massacrata dal punto di vista mediatico perché furono pubblicate intercettazioni che non avevano alcuna rilevanza penale, che sono risultate in un niente dal punto di vista penale, in cui erano esposte semplicemente cose di vita privata, elementi di vita privata, e si è vendicata. Ha fatto un emendamento, diventata deputata del Popolo delle Libertà, ha fatto un emendamento alla Camera dei Deputati nel disegno di legge sulle intercettazioni per dare la galera ai giornalisti che pubblicano le intercettazioni, e rivendica Deborah Bergamini la giustezza di questo emendamento, negando naturalmente che si tratti di una vendetta personale. Dice: questo è semplicemente ridicolo. Sentiamola. Io sapevo naturalmente che questo emendamento avrebbe fatto discutere tantissimo, però ci credo molto in quello che ho fatto nell'averlo presentato, perché penso che tante cose siano indegne di un paese civile nel nostro paese, e fra queste anche una crescente mancanza di tutela dei più elementari diritti costituzionali dei cittadini, e tra questi naturalmente c'è anche quello rispetto alla loro privacy. Bene, su questa questione è scoppiato naturalmente un terribile. Io qui vedo delle cose sbagliate, senatore Maraventano, Fabrizio Gatti. La borsa è Deborah Rosciani, no? No. Ecco, no. Non mi destabilizzate. Allora, la Deborah Bergamini ha presentato questo emendamento. È nato a Firenze si dice uno spicinio, una specie di... Perché Nicola Mancino, tutto il CSM, salvo i giudici laici, cioè non magistrati di centrodestra, insomma, no? Corrente garantista, più alcuni altri di correnti garantiste, sono quattro soli, tutti gli altri hanno votato a favore di un documento che boccia i provvedimenti che il Parlamento vuole varare sulle intercettazioni. Perché con linguaggio solenne e duro Nicola Mancino ha detto: queste intercettazioni, questo provvedimento sulle intercettazioni distruggerebbe le indagini. E poi il CSM si è collegato all'altro potere, al quinto potere, il potere giudiziario più potere mediatico, dicendo: pene eccessive per i giornalisti. L'emendamento Bergamini è finito anch'esso sotto processo. Ma siccome oltre alle intercettazioni c'è il tema della riforma della giustizia più in generale, con grossi elementi dentro, distaccare la polizia giudiziaria dal controllo troppo diretto dei PM, riformare il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè fare in modo che la sezione disciplinare possa effettivamente accertare qualche volta qualche colpa eventuale, qualche dolo di qualche magistrato, più la disincentivazione dei passaggi troppo disinvolti di carriera da avvocato dell'accusa, diciamo così sarebbe il nuovo nome per il pubblico ministero, a giudice terzo. E siccome ci sono tutte queste cose, noi oltre a una vecchia gloria del giornalismo, Lino Iannuzzi, che è qui in studio con me, oltre al capogruppo nella commissione giustizia dell'opposizione, questo era ovviamente dovuto, Donatella Ferranti, abbiamo invitato anche il ministro Angelino Alfano e siamo molto contenti che abbia accettato il nostro invito. Eccoci qui, giustizia, intercettazioni. Signor ministro, buongiorno. Buongiorno direttore. Caro ministro Alfano, il governo è d'accordo o no con l'emendamento Bergamini per dare un po' di galera ai giornalisti che pubblichino, si intenda bene, le intercettazioni private, i brogliacci che dovrebbero essere distrutti, che non appartengono al processo e che magari in ipotesi possono rovinare la reputazione o comunque mettere in piazza il privato dei cittadini. È d'accordo o no? Noi abbiamo proposto degli emendamenti che hanno nella sostanza eliminato la sanzione del carcere per i giornalisti. e dunque la linea del governo è stata quella di puntare di più sulle sanzioni pecuniarie anche per quanto riguarda gli editori invece che sul carcere nei confronti dei giornalisti. Rilevo che il cancan estivo è stato quello di attaccare il governo perché nella previsione originaria c'era il carcere dei giornalisti, poi quando abbiamo eliminato questa sanzione diciamo che non ci sono stati grandi riconoscimenti nei nostri confronti, però tant'è, questo ci sta anche nel rapporto con taluni settori sia dell'opposizione che della magistratura. Questo emendamento è un emendamento di promanazione parlamentare, come lei ha ben spiegato nella sua premessa, ed è stato approvato in commissione, non senza contrasti, tant'è che ieri durante la valutazione di tale emendamento e nell'ambito della commissione cultura si sono levate delle voci contro anche di esponenti del PDL, quindi noi ci affideremo anche alla libera valutazione parlamentare, però a maggiore chiarezza rispetto all'emendamento dell'onorevole Deborah Bergamini, io vorrei chiarire che non si tratta di un generico riferimento al carcere ai giornalisti, ma la fattispecie è più circoscritta, specificamente. Sì. Si riferisce alla possibilità di punire con una pena detentiva non solo i giornalisti, ma chiunque contribuisca alla pubblicazione di intercettazioni che il giudice ha già ordinato di distruggere. Quindi neanche qualsivoglia intercettazione irrilevante, ma più specificamente quelle che hanno già patito la decisione del giudice di distruzione, perché il nostro disegno di legge prevede che talune intercettazioni totalmente irrilevanti debbano essere immediatamente distrutte. Ovviamente non lo decide un qualsiasi cittadino passando per strada, ma lo decide un giudice. Quando un giudice decide che talune intercettazioni debbano essere distrutte e poi vi è invece la pubblicazione di intercettazioni che avrebbero dovuto già essere distrutte, allora si prevede la punibilità, ecco, ma non solo del giornalista, di chiunque contribuisca a questa azione, che è un'azione platealmente illegale. Appunto, lei ha spiegato benissimo la ragione. Mi rendo conto che è un terreno incandescente, perché adesso poi sentiremo subito l'onorevole Donatella Ferranti. È un terreno incandescente perché gli editori, i giornalisti, il sindacato dei giornalisti, il sindacato degli editori, il CSM, ripeto, tranne pochissime eccezioni, sono tutti contrari. Però, insomma, qui si tratta di praticamente come penetrare nella casa di una persona, rubargli un pezzo del suo privato e sbatterlo in pubblico, insomma, no? Da questo punto di vista, direttore, io non senza volere apparire per nulla retorico, vorrei dirle che si fa un gran parlare della nostra Costituzione, che è la carta fondamentale dei nostri diritti, e non si cita mai l'articolo 15, che non a caso non è il 136, ma è nella parte prima, quella dei diritti e dei doveri specificamente riconosciuti ai cittadini. E l'articolo 15 della nostra Costituzione così recita: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Cioè nessuno ricorda mai che vi è un articolo della Costituzione che così solennemente tutela il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza. Qui si è verificato un fenomeno che è paragonabile al fatto che ogni mattina ci sia qualcuno che ti apre la busta delle tue lettere. La Costituzione tutelava il diritto dei parlamentari ad essere giudicati dai loro pari e non dal primo PM che passa, che così può, diciamo, fare della giustizia un'arma impropria di tipo politico. Il vaglio dell'articolo 68 è stato abolito, ma ogni volta che uno dice rimettiamo, vergogna, però era nella Costituzione. E poi adesso lei cita l'articolo 15, signor Ministro, un articolo garantista, un articolo esemplare. Donatella Ferranti, abbiamo parlato anche troppo qui in difesa dei delinquenti intercettati, ci vuole un po' di sano senso di giustizia. Ci dica perché lei sta facendo questa battaglia. Io penso che lei sia una garantista, lei è capogruppo del Partito Democratico, è un magistrato. Sì, sicuramente. Il garantismo non vuol dire poi, diciamo, no, propendere sempre solo da una parte. Bisogna anche un po' avere un equilibrio, io ricredo. Ecco, volevo un po' precisare meglio, anche perché ho seguito i lavori parlamentari in commissione e so anche vicino agli occhi dove si aggancia quell'emendamento Bergamini. Volevo fare due precisazioni rispetto a quello che aveva detto il Ministro, e credo che da lì è nata anche un po' di battaglia alla Commissione Cultura all'interno proprio della maggioranza. perché nelle proposte iniziali del governo e anche del nostro disegno di legge che avevamo presentato proprio alla Camera c'era sicuramente una restrizione proprio in virtù di quei principi, no? Che abbiamo detto di riservatezza, delle libertà, della segretezza delle comunicazioni, quindi un rafforzamento dei principi della, diciamo, della non divulgazione delle intercettazioni irrilevanti. No, non, scusi, però non riesco a capire, onorevole Ferranti. Lei è d'accordo naturalmente con l'articolo 15 della Costituzione? Sì, ma la riservatezza della corrispondenza, sì, delle, sì, conversazioni. Sì, ma sa che l'articolo 15 però dice che può essere, diciamo, violato quel principio in base all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, no? Sì. Quindi nel momento in cui... Però se io pubblico le telefonate di una funzionaria della RAI con la sua mamma o con i suoi fidanzati, ma infatti il problema non è quello, è il problema di aver previsto, direttore, guardi, di aver previsto un delitto punito con la reclusione fino a 3 anni, desunto dalla legge sulla privacy, perché io ho visto com'è andata, no, l'emendamento Bergamini. Che ma lei è contraria a questo, no? Sì, a questa. Ma perché? Sì, per me 3 anni sembrano anche pochi per un reato. Siamo contrari all'applicazione di una specie delittuosa che è stata mutuata da quel trattamento sulla privacy, che prevedeva, lì in quella originaria formulazione, l'ipotesi appunto di un danneggiamento specifico, cioè nel senso la volontà di danneggiare. Allora, a che cosa invece è stato agganciato in una maniera, diciamo, esorbitante nel testo della Camera? Al fatto, a due ipotesi tra loro diverse. Cercherò di essere breve e chiara, se posso. Da un lato si fa riferimento alle conversazioni espunte, quindi come irrilevanti, e per quelle già avevamo previsto noi nel nostro disegno di legge un aggravante rispetto alla violazione proprio del segreto, quindi già c'era una previsione in questo senso. Dall'altra invece si è detto le telefonate distrutte, ma sa che cosa? Questa è una cosa fuorviante sono state distrutte a seguito di ordine dell'autorità giudiziaria, ma in realtà la distruzione è prevista dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, quindi parliamo di 4-5 anni dopo, no? Ecco, ma riguarda tutte le registrazioni, anche quelle che nel frattempo sono state trascritte e ritenute rilevanti e acquisite al fascicolo del dibattimento. Quindi un giornalista, quindi parliamoci anche, quindi ecco perché noi abbiamo detto il giornalista. Scusi, io mi perdo in questo labirinto tecnico, mi perdo. Però lei mi aiuterà adesso a uscirne. Le faccio la domanda, ma io le faccio la domanda, diciamo, formale e insieme sostanziale. Sì, ma è molto importante. Se un giornale o un radiogiornale pubblica, diffonde informazioni sulla vita privata di un cittadino desunte da intercettazioni che secondo l'autorità giudiziaria devono essere distrutte perché non c'entrano col processo, riguardano solo quel cittadino, la sua vita privata, i suoi interlocutori eccetera, ci deve essere una punizione per chi rende possibile questo? Era in graduazione rispetto all'articolo che prevede punizione, non graduazione. Sì, rispetto alla punizione è gradata, no? Secondo della violazione è gradata. Quindi si passa da. Mi dica il massimo, passiamo subito al massimo. Il massimo qual è? Il delitto e la reclusione. Mi dica il massimo della punizione che lei prevede. Noi abbiamo previsto una pena pecuniaria fino a 20.000 euro, d'accordo? Che secondo noi è un deterrente ancora maggiore, perché se lei pensa che la reclusione fino a tre anni vuol dire che possono essere anche 6 mesi e che quindi può essere anche una questione di mera sospensione della pena, poi non arriva poi nelle tasche di nessuno. Va bene, 20.000 euro. Qualcosa, ma no, ma la cosa più grave e incongruente del testo è che si riferisce la distruzione. Adesso ci torneremo, onorevole Ferranti, adesso ci torneremo. E volevo anche la versione di Lino Iannuzzi, perché insomma qui tra intercettazioni, tabulati, agenzia Genchi eccetera, Genchi è molto simpatico, l'abbiamo visto, l'abbiamo avuto qui e si è difeso molto bene, però insomma la gente ha capito che la privacy è in ballo, è in discussione. Come la pensa Iannuzzi? Vorrei innanzitutto salutare il nostro ministro della giustizia, che è tanto giovane quanto bravo. E sono assolutamente d'accordo con le sue precisazioni. Il ministro da una parte ha giustificato, tra virgolette, l'emendamento della Bergamini, dall'altra ha precisato come perché la linea del governo è un'altra e mi sembra ovviamente più realistica. Per quanto riguarda tutto il resto della discussione, io farei una sola osservazione. Sì. Quale che sia la pena che poi si deve dare ai nostri colleghi giornalisti, quella pecuniaria, quella carceraria e così via di seguito, va comunque anche punito, anzi va prima punito il magistrato che gli passa le intercettazioni. Questo l'ha detto persino l'onorevole Luciano Violante, il non più onorevole Luciano Violante. Ma questo no, una no, volta, no, una volta il Partito Comunista. Onorevole, sempre onorevole. Come sempre, onorevole sempre, emerito, si dice. Questo una volta il Partito Comunista diceva sempre sì a Violante. Questa volta invece non lo seguo. Ma non c'è più il Partito Comunista, senatore Iannuzzi, lei vive nell'Ottocento. Lo so, sono vecchie mie memorie. Vabbè, io vorrei parlare adesso con Valerio da Padova. Valerio. Pronto, sono qua. Eccomi, mi dica. Allora, io volevo soltanto intervenire in questa bellissima discussione sollevando, diciamo, un'esigenza dell'utente della strada, della giustizia. Qual è il problema principale che tutti riconoscono? La durata dei processi. Su questo punto mi volevo permettere con molta umiltà di indicare un possibile argomento da proporre al Ministro, è questo: intervenire su quel blocco di norme civilistiche e penalistiche che riguardano l'interpretazione della legge. È chiaro che oggi l'interpretazione consente 50 soluzioni per ogni problema. Quando un cittadino si rivolge a un avvocato o chiede giustizia, lui cosa fa? Va a esplorare se la sua situazione possa essere ricondotta a questa o quella soluzione. Se invece le soluzioni, riducendo la possibilità di interpretare, fossero di minor numero, è chiaro che la necessità di avere una sentenza risulta di minor necessità, perché è già, diciamo, in prima istanza l'interprete giuridico che gli dice: guarda, che se fai una causa la perdi, perché questa è l'interpretazione. Ah, ho capito. Valerio, scusi, lasciamo un minuto e mezzo al ministro per spiegare. Ministro, ha capito l'obiezione che fa, sì, Valerio? Sì, ho compreso bene l'obiezione, e credo che da quando si scoprì che l'isola non era deserta, ma c'era pure Robinson Crusoe, c'è stato il problema di regolare i rapporti giuridici, e da quel giorno l'ambizione è stata quella che le regole scolpissero diritti chiari e doveri chiari, non necessitanti di interpretazione, proprio in virtù della chiarezza delle leggi. Purtroppo l'interpretazione è un canone al quale si ricorre proprio per l'applicazione della legge, che è generale e astratta, alla fattispecie concreta, quindi tutto il lavoro da fare è tutto sulla interpretazione, tutto sulla chiarezza della norma. Più la norma è chiara e più vi è la possibilità che non ci siano dubbi interpretativi. Però io vorrei fare un esempio che ci riporta al tema e che dà la misura di come anche una legge chiara possa essere poi interpretata a piacimento. E specificamente la norma vigente attualmente da tanti anni nel nostro codice di procedura penale relativa alle intercettazioni. I nostri telespettatori hanno il diritto di sapere. Telespettatori? Che no, nel ministro, nostro codice di procedura ministro, penale. Siamo alla radio. Sì, sì, i nostri radioascoltatori. Che il nostro codice di procedura penale vigente, quello attualmente in vigore, quindi non quello da noi proposto, modificato, ma quello vigente, dice che le intercettazioni sono ammesse quando risultino assolutamente, con l'avverbio di modo ben scandito, assolutamente indispensabili alla prosecuzione delle indagini. Cosa significa indispensabile? Credo che non ci sia bisogno di specificarlo, vuol dire che non se ne può fare a meno. Assolutamente è un rafforzativo, quindi assolutamente indispensabile alla prosecuzione delle indagini. E invece uno apre il rubinetto delle intercettazioni così come fosse. Ah, posso fare un elogio di Giuseppe Caruso, questore di Roma? L'ho visto dagli schermi di Sky l'altro giorno dire: abbiamo preso i rumeni stupratori della Gaffarelli solo e soltanto attraverso le indagini, senza nessun ausilio elettronico, nessuna intercettazione. Siccome... I famosi metodi tradizionali secondo cui il poliziotto e le forze dell'ordine vincono il concorso relativo alla finanza, ai carabinieri e alla polizia per fare il loro lavoro. non perché c'è qualcuno che sempre con lo spioncino, con la cuffia alle orecchie deve, perché poi magari si verifica che ci sono due rumeni furbi, criminali e delinquenti che hanno fatto uno stupro e che non accendono mai il telefonino. Certo. In quel caso come si fa? Certo. Come ha fatto il questore di Roma, cioè con metodi tradizionali, facendo, non avevano neanche, guardi, la foto segnaletica. Giuseppe Caruso, molto bravo. Sì. 800 24 00 24, si affollano un sacco di telefonate, non so, è un argomento che interessa da morire. Federico da Lecce protesta. Buongiorno, Federico. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, protesto perché purtroppo in prima persona ho avuto l'esperienza della divulgazione delle intercettazioni non inerenti al processo. E in più, tra l'altro... Cioè, che le è successo? Ah, che le è successo? Ma guardi, io dico francamente senza problemi, ero un ex appuntato dei carabinieri, sono stato accusato ingiustamente, ribadisco, ingiustamente per il reato di concussione aggravata, sono stati pubblicati degli stralci di intercettazione non inerenti al processo che riguardavano... Dove? Dove sono stati pubblicati? Dove? Non me lo faccia dire gentilmente, che c'è in corso un procedimento nei confronti dei giornali e di chi presumibilmente ha divulgato queste notizie. Tra l'altro sono stati divulgati anche certificati medici che mi impedivano assolutamente di affrontare un viaggio per andare ad affrontare il processo, ed sono stati divulgati. Ora io mi chiedo, questi certificati medici, una volta che vengono inviati alla Procura della Repubblica, chi li prende e perché vengono divulgati? È una violazione, se non erro. Vabbè, quindi lei dice, racconta, dice, la mia è una piccola storia, Una goccia in mezzo all'oceano, perché poi ci sono tante altre cose che anche non mi riguardano personalmente, però sta facendo acqua da tutte le parti questa storia di intercettazioni. Hai sbagliato? Paghi. Devi pagare, non ma forse, ma come, dove e quando. Ci deve essere un garante che garantisce che queste benedette intercettazioni o atti documentali del processo non devono essere divulgati per nessun motivo. C'è invece Maria da Pistoia che la pensa diversamente. Grazie Federico. Maria. Buongiorno dottor Pesara. Buongiorno. Ma io senta, sarò pure populista, ma la penso così. Se l'eminente uomo politico viene intercettato con la sua gazzetta di turno, sono fatti loro, no? Ma se la gazzetta di turno me la ritrovo in eminente posizione istituzionale, pagata con i quattrini pubblici, mi rompe. Oppure se l'eminente uomo politico ragiona con il suo yes man di turno, che lui gli dice sempre di sì su tutte le note, va bene? Se sono fatti privati, sono fatti privati. Se poi me lo ritrovo lì istituzionalmente piazzato, ossequiente, rispettoso, a dire sempre di sì, mi rompe, perché al solito anche questo viene pagato con i nostri sudatissimi quattrini. Ora, la calunnia è un venticello, però l'intercettazione qualche garanzia di più me la dà. Ho capito, va bene, la gazzetta. No, è molto chiaro e anche molto gradevole il modo di esporre il suo punto di vista, diciamo non propriamente garantista, ecco. Però voglio dire, poi il populismo non è mica un reato, Simpatico lei ha detto, dice, no, non datemi di populista, non è un reato il populismo. Va bene, io passerei però anche ad altre cose importanti che ci sono nel pacchetto complessivo sulla giustizia che o è arrivato, intercettazioni, o sta per arrivare alle Camere. Ministro Alfano, insomma, questa storia di tirar via da un rapporto troppo diretto e troppo subalterno, diciamo, la polizia giudiziaria rispetto al PM, ha fatto molto scandalo, perché noi siamo abituati all'idea che, insomma, la polizia giudiziaria è spesso un prolungamento della pubblica accusa. Qual è l'intento della norma che lei vuole far approvare alle Camere su questo? L'intento è molto chiaro ed è quello, mi riferisco anche alla parte della conversazione di poc'anzi, quando si parlava della qualità dei nostri poliziotti, dei nostri carabinieri, dei nostri esponenti della Guardia di Finanza, insomma di tutte le nostre forze dell'ordine, di restituire loro quella possibilità di contrastare anche il piccolo crimine con un chiaro perimetro di competenze distinto proprio da quello del pubblico ministero, il quale fa un concorso per divenire magistrato e fa tutt'altro mestiere rispetto a quello del poliziotto. Quindi nella sostanza si tratta di questo. La notizia criminis, quindi l'individuazione della notizia di reato, compete alla polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria vi lavora su, si fa la propria opinione, la scrive, la manda al PM, il PM valuta se quella notizia che il poliziotto, il carabiniere, il finanziere gli ha mandato è in grado di reggere ad un pubblico giudizio, nel senso di processo. Se così sarà, si svolgerà il processo, se così invece non sarà, il processo non si svolgerà. Crediamo che sia una norma che abbia una sua radice storica, perché così ha funzionato dal 1948 sostanzialmente fino al 1989, e che tornare a quel modello di riferimento sia una modalità efficace per contrastare il crimine organizzato, ma anche quello di strada. Ma ho visto che stamattina Pannella ha convocato un congresso straordinario dei radicali contro lo Stato di Polizia, si riferiva mica a queste norme, no? Non si riferiva a queste norme, si riferiva al suo discorso generale sul pericolo del regime, anzi sull'attualità del regime in Italia. Non ha parlato di queste cose qua. E Donatella Ferranti cosa pensa di questa parte, diciamo, del pacchetto giustizia del governo? Ma diciamo, questa, io ho un'idea un pochino diversa rispetto a quella che ha espresso il Ministro, che anzi saluto, perché questo ritorno eccessivo al passato forse dimentica che in tutti questi anni, dall'88 e dall'89 in poi, sostanzialmente si è modificato il processo penale e quindi si è anche richiesto per il nuovo processo penale un rapporto più diretto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria. Sono d'accordo sul fatto che la polizia giudiziaria debba recuperare anche in termini di professionalità, diciamo, recuperare o comunque aumentare la sua professionalità e quindi avere un'autonomia, diciamo, anche nella ricerca della notizia di reato, perché questo è il punto. Anche se proprio l'esperienza, tutte le indagini andate a buon fine, proprio quello che serve anche al nostro paese per la sicurezza, implica, dottor Ferrara, proprio una stretta stretto collegamento, diciamo, della polizia, del carabiniere, della stazione Cina con il pubblico ministero di riferimento. Perché? Perché alcune volte, in alcuni reati, non sempre, in alcuni reati è necessario questo intervento immediato dell'autorità giudiziaria, che consente proprio alla polizia giudiziaria e quindi al nostro paese, all'esigenza di sicurezza dei cittadini, di intervenire immediatamente. Iannuzzi, ci spieghi lei un po' i segreti di questa norma, diciamo. Adesso il Ministro ha dovuto darne una definizione formale, culturale, ufficiale, normativa. No, qual è il punto vero? Perché la polizia deve essere più indipendente dal PM? Se mi posso permettere di parlare un po' più brutalmente del Ministro, perché la polizia giudiziaria è più capace di un studente in legge che si è laureato all'Università di Napoli e ha fatto poi un rapido concorso in magistratura ad indagare. È una cosa scontata, giustamente è stato così fino all'89, eccetera, eccetera, e poi si è introdotta questa cosa che non funziona. Non solo, ma c'è un paradosso che la spiega ancora meglio. Perché, avendo la polizia giudiziaria al loro esclusivo servizio, per una cosa delicata come le intercettazioni o i tabulati, fior di magistrati italiani negli ultimi 15 anni si sono rivolti a un privato cittadino, sia pure sarebbe un vicequestore in aspettativa. Sarebbe interessante capire perché. Non è così, un attimo, no. C'è una polemica. Prego, dottoressa. No, non è così, perché diciamo non c'entra, si stanno sovrapponendo dei discorsi anche per una corretta informazione, che non è così. Cioè, innanzitutto adesso non usiamo parole grosse. Beh, no, non è così, perché non fior di magistrati, un magistrato, due magistrati si sono rivolti tra l'altro a un funzionario di polizia, perché diciamo che quale due magistrati? Tutti i magistrati della Procura di Palermo da 15 anni e per le indagini più delicate, la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, quali due magistrati? Era un funzionario di polizia. Quindi, è un funzionario di polizia che si è messo in aspettativa. In aspettativa, un privato cittadino con una società privata, con apparecchiature private. Ma che vi sia stata un uso distorto e un conto, ma che Genchi fosse un privato cittadino non è vero. Quindi, voglio dire, apparteneva alla polizia e quindi ha iniziato a lavorare come funzionario di polizia e lì ha acquisito la sua credibilità nei confronti dei magistrati. Alcuni l'hanno utilizzato in monopo proprio all'inizio, poi vi è stato un uso improprio. Di che cosa? Proprio perché la polizia giudiziaria è poca. Allora, diciamo le cose come stanno. La polizia giudiziaria è poca, la polizia giudiziaria preparata purtroppo è sempre meno, perché le risorse sono investite sempre meno in questo settore e quindi molte volte purtroppo alcuni magistrati si sono rivolti al poliziotto che poi ha messo su una specie di diciamo tra virgolette impresa. Ma non è una cosa un po' artigianale, un po' strana? Ma infatti bisogna, su questo siamo pienamente d'accordo, lo noi so, per dire che le intercettazioni telefoniche, io l'unica in Parlamento ho fatto la interrogazione sulla legittimità degli incarichi a Genchi, io unica insieme all'onorevole Tenaglia del Partito Democratico, nessun bravissimo altro della maggioranza. Bravissimo. Quindi voglio dire questo, che sia chiaro, e noi diciamo e vorremmo anche prevederemo anche un emendamento nel senso che i tabulati telefonici devono essere sviluppati dalla polizia giudiziaria. Lei che è di formazione un magistrato, sentiamo Livio da Roma. Livio? Sì, buongiorno. Eccomi. Ma io volevo riprendere un attimo quanto aveva accennato il senatore Iannuzzi, a proposito, in senso ampio, ma anche nello specifico, della responsabilità dei magistrati, cioè nello specifico, nel momento in cui qualche cosa che non dovrebbe uscire esce da una procura. Potrà essere stato il cancelliere o chiunque, ma il magistrato credo ne sia responsabile. Al di là delle migliori intenzioni in cui si dice che dovrebbe essere responsabile, ma c'è mai o poi una responsabilità oggettiva per cui si possa sapere che effettivamente a fronte... Domanda perfetta, io avrei una risposta che è questa, non esistono praticamente accertamenti e poi sanzioni contro magistrati che abbiano fatto uscire segreti investigativi, eppure noi viviamo, ci cibiamo dal breakfast alla prima colazione, alla cena, di segreti investigativi divulgati dalla mattina alla sera, in politica, nelle battaglie tra poteri forti economici, dovunque, insomma, appena c'è segreto investigativo violato è la prima regola. Allora, tiro fuori il domandone, come nei quiz, Ministro Alfano, approfitto della sua disponibilità. Il domandone è tutto politico. Allora, il governo vuole limitare il potere di intercettare che hanno oggi i magistrati, un potere notevole che, diciamo, li porta in prima serata in televisione e li porta, come dire, ad essere più noti da Santoro, sì, più noti di una della squadra nazionale di calcio. Allora, intercettazioni, limiti. Polizia giudiziaria, meno potere ai PM, più potere alla polizia di indagare perché sono più bravi. CSM, disciplinare. Volete che appunto le violazioni del segreto investigativo e tutte le infrazioni disciplinari vengano infine punite da un organismo che sia non un organismo corporativo, cane non morde cane. Infine, passaggi di carriere è un altro elemento del suo disegno di legge. Volete rendere più difficile lo slalom tra la carriera di accusatore e la carriera di giudice terzo. E come volete poi che i magistrati siano, diciamo, contenti? Politicamente avete la forza di sostenere questo? Perché fino ad oggi, Ministro Alfano, se lei ce la facesse sarebbe veramente un fatto storico. Fino ad oggi sono 30 anni che tutti vogliono sempre riformare e non... Come fate? Guardi, innanzitutto sulla sua premessa dico questo: noi non intendiamo limitare i poteri di alcuno, vogliamo molto semplicemente proteggere i cittadini dalla criminalità e rendere i cittadini davvero uguali di fronte alla legge rispetto al rapporto che esiste tra il giudice, che è quel soggetto terzo, neutro, imparziale, chiamato a giudicare sulla tua vita, sul tuo comportamento specifico, quindi in realtà che incide sul giudizio complessivo della tua vita, perché se giudica un tuo comportamento come illegale, contra legge, di fatto butta disdoro sulla tua vita, e il pubblico ministero che ha fatto il suo stesso concorso, il pubblico ministero che vive e lavora nel suo stesso ufficio, perché essendo il nostro obiettivo di fondo quello della parità tra accusa e difesa, nel momento in cui non vi fosse una vera equidistanza del giudice rispetto al pubblico ministero, a pagare il conto sarebbe il cittadino, cioè i due piatti della immaginaria bilancia della giustizia sarebbero squilibrati. Quindi questo è il nostro obiettivo, la parità tra accusa e difesa. Fermo rimanendo questo, rispondo a quello che lei chiama il suo domandone. Guardi, direttore, noi stiamo provando a fare, con la banalità di quanto sto per dire, ma anche con la serietà di quanto sto per dire, stiamo provando a fare tutto ciò che il centrodestra ha sempre detto da 15 anni di voler fare. Stiamo provando a rendere la giustizia più efficace e funzionante, a dare parità tra accusa e difesa, a far sì che il carico pendente nei processi civili, oltre 5 milioni di processi, venga smaltito e i cittadini possano avere risposta alla loro istanza di giustizia in tempi ragionevoli, a realizzare nuove carceri, a fare una riforma costituzionale che garantisca un processo giusto e a fare una serie di norme di efficienza che garantiscano un processo rapido. C'è Gianni, c'è Gianni da Roma, che non posso dargli la parola perché non abbiamo più tempo, o forse sì. Gianni, ministro, poi lei continuerà. Gianni? Sì, eccomi. Bene. No, il posso? Ministro diceva, poi alla fine i processi devono essere più rapidi, mi pare che sia la sua istanza anche. Ma io infatti mi volevo rivolgermi al ministro Alfano, perché lui parla sempre di cittadini come schermo per introdurre nuove norme, ma noi cittadini nel nostro quotidiano vogliamo cose semplicissime. E cioè? Pronto? E cioè? Le cose semplicissime, i processi civili durano una vita. Noi abbiamo a Roma più avvocati che in tutta la Francia e il grosso datore di lavoro è il ministro di giustizia e il Parlamento. Finché continuate a far finta di non capire questo fenomeno, c'è la signora Bergamini, attuale parlamentare, ha detto, tra parentesi, Ferrara, lei si è dimenticato di dire che lei prima di essere dirigente Rai era dirigente Mediaset, è un dettaglio, lasciamo stare. Beh, non è vietato passare dalla Mediaset alla Rai e viceversa, sono le due grandi concentrazioni, diciamo, televisive italiane, tanti sono passati dall'una all'altra. Cioè niente, è stata una sua dimenticanza che mi sono permesso di colmare. Figuriamoci, ha fatto benissimo, ma dico, non è un reato, è un dettaglio irrilevante. Sara, ho detto che è una dimenticanza. Sì, sì. No, ma non sto polemizzando con lei, dico solo che è un dettaglio irrilevante, me lo sono dimenticato perché è irrilevante. Comunque, vada avanti. Intelligente, Ferrara. No, intelligente, sono sincero, se no me lo sarei ricordato. Lei forse vuol dire un'altra cosa, che Deborah Bergamini era nella segreteria di Berlusconi ed è entrata come dirigente nella RAI. Questo sì che è un dettaglio. Bravo, ecco, Ferrara. Allora, non Mediaset, perché da Mediaset alla RAI... diciamo sono tutti buoni. Sì, io le ricordo che naturalmente ci sono fior di segretari di Veltroni eccetera che sono andati anche loro a fare i funzionari della RAI. L'Italia è così, lo sappiamo, la RAI viene addirittura definita partito RAI, è un partito tra gli altri. Va bene, comunque più avvocati a Roma che in Francia, ministro. Noi inimichiamoci anche gli avvocati, via. Come, scusi? Inimichiamoci anche gli avvocati. Oltre. No, ma non credo che l'obiettivo di qualcuno possa essere farsi dei nemici. Sì. Noi abbiamo lavorato sul processo civile in modo tale da riuscire ad assicurare un grande obiettivo. Il grande obiettivo è quello di accelerare i tempi di definizione dei processi. Per far questo, segnalo al nostro radioascoltatore che esattamente mercoledì dell'altra settimana, quindi fra 6 giorni, il Senato tratterà e approverà la riforma del processo civile, che è già stata approvata dalla Camera il 1 ottobre. Quindi del tema della rapidità dei processi ce ne siamo fatti carico molto celermente. Grazie Donatella Ferranti, poi Iannuzzi e poi chiudiamo. Sì, una battuta perché è una battuta finale, ma se penso che sia significativa da chi lavora all'interno della Camera, e tutte queste promesse del Ministro sono sicuramente forse del qualcosa che vuole raggiungere, credo nella sua buona fede, ma in realtà manca, e questo è quello che voleva dire quel radioascoltatore, manca da parte del governo governo un progetto organico di riforma del processo civile, di riforma del processo penale. Cioè si è intervenuti, si interviene anche sul processo civile, il Ministro lo sa benissimo, che non è una riforma del processo civile, è alcuni segmenti che diciamo introducono tra l'altro delle note discutibili e che non risolveranno quello che noi invece stiamo dicendo da tempo. Speriamo che lei abbia torto, ma può essere che lei abbia ragione. Purtroppo è così. No, speriamo, ma può essere che lei... ne abbiamo parlato più volte e quindi forse è il caso di veramente sedersi a un tavolo e cercare di fare una riforma organica che tenga conto non degli interessi di una persona ma degli interessi di tutti i cittadini. Grazie onorevole. E senatore Iannucci, certo, si può fare sempre di meglio e sempre di più, ma se soltanto passano le cose che questo governo e questo ministro hanno messo in cantiere, c'è una rivoluzione. Senatore, non mi faccia battute filo governativo. No, non faccio battute filo. Faccio una battuta, se me lo consente, filo politica. Qui da 15-20 anni che è la vera ragione della crisi italiana, c'è uno squilibrio tra i poteri. È vero, tra quello giudiziario e quello politico non c'è più un equilibrio e perciò non funziona più niente. Queste norme già riportano al vecchio equilibrio e costituiranno in Italia una rivoluzione. Bene, grazie a tutti voi, grazie a Franca Fossati in redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Chiappini in regia, Filippo Aureggi, e linea Gianluca Negoletti con Mailog 2.0 dopo il giornale radio. Grazie a tutti voi che avete telefonato, ci sentiamo domani.